Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie della vostra attenzione, grazie a Luca Giulio che è tornato alla nostra regia. Vi rinnoviamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. E a proposito di lettere, grazie anche a Mikor Ivancic che mi ha mandato una gentilissima lettera. Le piacciono i miei articoli su Linus e li va a leggere sui numeri arretrati. In effetti non può andare a leggere altrove.